Finalmente al popolo appartiene un altro lento, nostalgico canto dell'addio, l'Ebenver. Dice il testo, è ben vero che m'allontano, dal paese ma non dal cuore. Sta pur certa tu, mia cara, ch'io ritorno se non muoio. Una promessa, meglio ancora un impegno, d'essere fedele alla donna amata è già il desiderio del ritorno. Componimenti che avete ascoltato esprimono con diverse parole ma con identico concetto un momento della vita dell'emigrante, l'atto della partenza, il minuto dell'addio, forse il più emotivo della sua sorte di uomo costretto ad abbandonare la casa e la terra natali. Ma il popolo friulano avrebbe saputo scandire anche il più lungo momento della lontananza, quello caratterizzato dalla nostalgia. Nostalgia che è insieme ricordo e rimpianto degli affetti lasciati e fermo proposito e in quanto tale speranza e sprone di far ritorno in patria. In Montagnutis, ad esempio, il sentimento della nostalgia è cantato con intensità e purezza e con un'invocazione che è uno squarcio di alta poesia nella richiesta che si compia un miracolo, che le montagne si abbassino e lasciano vedere il paesaggio friulano della gioia e dell'amore. Sebbene sia stata ispirata dalla guerra, ben può dirsi un canto dell'emigrazione. Non costringe forse la guerra a star lontani da casa, a ricordare i propri cari. Quell'altra stupenda villotta ai Preà, che dice la tristezza dell'assenza e al tempo stesso la vicinanza spirituale con la persona amata. Solo che qui c'è un'inversione di persona. Non è più l'uomo che canta la propria nostalgia, ma la donna che si rivolge alla buona stella, ai santi del paradiso e al Signore perché l'amato ritorni. Una villotta che è oltretutto un sottinteso elogio alla tenerezza della donna friulana per il proprio uomo. In queste due ultime villotte, dunque, il sentimento della nostalgia, il secondo momento della vita dell'emigrante, e la musica lenta, sospirosa, ha sottolineato la malinconia, la pena del cuore per la lontananza. Ma il popolo friulano non poteva non trovare in sé il motivo musicale che sottolineasse il terzo momento della vita dell'emigrante, quello del ritorno a casa, il momento più bello, che è esultanza, felicità, presa di possesso con il mondo reale e affettivo abbandonato e tanto a lungo sognato in terra lontana. E sentite come anche le note del canto si fanno ilari, festose in questa famosa villotta popolare che è un po' il canto dell'augurio d'ogni emigrante. Ritornando dall'Ungheria la trovai sul lavatoio, abbandonai la compagnia e mi misi a far l'amore. È l'augurio che facciamo a tutti, a ciascuno di voi, cari fratelli emigrati in ascolto, di tornare al vostro Friuli, ai vostri cari che accanto al focolare vi attendono con la vostra stessa nostalgia. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, nostalgia del focolare, 49esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Ermete Pelizzari e Dino Menichini. Musiche di Zardini e di Escher. Parole di Zardini e Frucco. Canti popolari. Coro di San Lorenzo di Sedigliano diretto dal maestro Leandro Plenizio.